con lucide crescenze per fare un bilancio dell'annata cinematografica e per sapere anche i suoi 5 preferiti tra i film usciti in sala nel 2021. Ben trovata e auguri, dicci tutto. Auguri Federico, buon anno e buon anno a tutti. Andando a ritroso, in effetti vabbè, sono usciti tantissimi bei film e di questo sono contenta, e però c'è qualcosa di più vecchio che mi ha colpito, come per esempio Un altro giro e The Father, che sono stati due film che mi hanno colpito particolarmente. E invece per quanto riguarda i nuovi, ovviamente è stata La mano di Dio, per la stima che ho per Sorrentino, ma particolarmente perché sono napoletana e quindi mi sono anche molto divertita, e anche La persona peggiore del mondo di Trier mi è piaciuto. Poi lo so che sono di parte, ma devo mettere il mio film Eleven and Man, La scelta di Anne, che abbiamo vinto il Leone d'Oro, e credo che anche quello insomma è comunque tra i miei preferiti dei film usciti in sala. Ecco i miei 5. Che bilancio fai di questo anno? È ovvio che rispetto agli incassi del 2019 siamo molto lontani, però abbiamo fatto una bellissima campagna per avvicinare il pubblico alla sala, e comunque le persone stanno tornando, certo. Per tornare alla normalità, come quando, insomma, prima della pandemia, ci sarà solo quando andremo in sala senza mascherina, allora lì poi si possono fare i veri bilanci. L'importante è che teniamo la sala viva e che comunque quando uno va in sala è un'emozione totalmente diversa, e si è visto anche in film per esempio come questo di Sorrentino, che nonostante dopo poche settimane era disponibile in piattaforma, chi ha voluto apprezzare questo film è andato in sala, e quindi comunque è sempre il modo migliore per fruire un film. Lucy, un abbraccio, ci sentiamo nel corso dell'anno. Ci sentiamo sicuramente. Io approfitto per dire che in sala c'è ancora il nostro film di Zhang Yimou, One Second, che sta facendo comunque bene, siamo contenti, è un regalo che Zhang Yimou ha fatto, è un omaggio al cinema, per cui noi, come sai, ci teniamo alla sala e lavoriamo sempre prima di tutto per dare al pubblico il film direttamente in sala, per cui sicuramente anche quest'anno usciremo con buonissimi film. Partiamo subito con il film di Odia, per cui ci sentiremo sicuramente presto. Grazie e buon anno a tutti. Un abbraccio, auguri. Un abbraccio, auguri, ciao ciao.